Va bene. Quattro righe e carattere font 7. No, ma comunque, Stefano, tu non ci sei, ma io sono qui a difendere ogni numero del Coxo e sono qui insieme ad un super mega galattico ospite della puntata che si chiama Piero, che ormai è un grande esperto del Coxo perché da quando è cominciato è già la terza volta che viene, capito? Ciao Piero, allora. Ciao Stefano. Ma tu l'hai mai incontrato, Piero? Ma non lo so, chiedi a lui perché io non mi ricordo mai niente. Tu te lo sei sempre perso, Piero. Sa che era sempre fuori Bologna. Sì, perché vedi come fa sto Pasquini. Al supermercato. in galleria, in una tomba. No, ebbene, quindi no, perché Piero in realtà è un artista eclettico, un creatore. Ah. Che bello. E in questa circostanza è qui anche come creatore di mondi, artista demiurgo, grafico demiurgo, oserei dire. Sì. E in più viene a presentare in un'anteprima coxica incredibilissima una graphic novel. Hai capito? Una graphic novel. Sì, so di che cosa stiamo parlando. Dal titolo giapponese. Pensa un po'. Vado? Mm-hmm. Vado? Vadi, con la mia prima gaff. Bakanako Koro. Buono. Ho detto bene? Sì, l'hai detta bene. Giusta. Okay. Bakanako Koro è facile. Che ha anche un significato preciso. Significa cuore pazzo. Cuore pazzo. E qua che si bello. Apre il mondo. Il mondo creato by Piero, giustamente. Esatto. Ma no, niente. Ti sento bello carico. Questa esperienza della firma del contratto ministeriale penso ti sta tirando veramente su. Quindi non lo so. Sono carichissimo, soprattutto per l'evento di venerdì, naturalmente. Vuoi dirci non solo per il fatto che è di fronte a casa mia, ma. Ma visto che comunque non ci sei, vuoi che ti chiami anche dopo? No, qua vedi tu, insomma. Ti chiamo dopo o ci fai un'anticipazione adesso? Vi faccio un'anticipazione adesso, dai. Perché così posso il Coxo 285 parla anche in menzione di un evento che si intitola As if there was nothing to say. Come se non ci fosse niente da dire. Come se non ci fosse niente da dire. Ho tradotto io qui sul qui. Hai tradotto benissimo. Grazie. E quindi perché ne parliamo e tu lo senti così presente al di fuori del fatto che è di là della strada da casa tua? Beh, dunque, innanzitutto è al Mambo, che non è una cosa che mi succede tutti i giorni di presentare un libro al Mambo, e poi perché è il mio primo libro da artista, diciamo. Ma capisci le connessioni coxiche, perché qui abbiamo il primo libro da graphic novel di Piero e tu ne in menzione questo venerdì presenterai a tua volta un primo libro. Cioè no. Non è il mio primo libro da autore, ma il mio primo libro da artista, nel senso che questa volta io presento solo immagini, mentre l'unica piccola parte di testo è stata scritta da Lorenzo Balbi, che abbiamo avuto ospite al Coxo e che è il direttore del Mambo. Ah, che bello. Dopodiché, quando le cose sono tutte in famiglia coxica, mi piace. Esatto, dopodiché sarà una presentazione un po' performativa, perché ci sarà la fantastica Zhao Zhengji che sventolerà delle bandiere, poi ci sono Diana Nicotri che suona il violoncello, Roberta Pasi e Marina Degano che invece agiscono con Mario Trombino, parleranno di istanze filosofiche, eccetera, eccetera. Insomma, alla fine io non ho nulla da dire, ma loro hanno tanto da dire. Ma che vogliamo poi organizzarci un Coxo con tutti loro per riprendere questo argomento in separata sede? Sarebbe meraviglioso. Oh, che bello, che bello. Allora vediamo di organizzarci per dicembre, perché ormai novembre è tutto pieno. Okay. Tutto pieno, veramente. E a questo punto io ti saluto, ti lascio andare alle tue meravigliose attività giuridico-amministrative e mi concentro sul nostro megagalattico ospite unico e solo di questo 285esimo Coxo. Unico e solo, Piro, molto bene. No, Piro e basta. Solo Piro, è uno. È uno, non sono due. È colpa di Oscar Moroni che mi manda dei messaggi subliminali. Va bene, allora ti lascio chattare con il nostro unico ascoltatore del Cox, che se chatta con te non ascolta noi, e fargli no, un riassunto. Sono due, Oscar e Moroni. Va bene, come non detto, scusatemi. Allora è stato bello, ho pianto tanto. E Azzalat! Salat, che lingua salat è? È un po' salato. Salut, e... com'è che si dice in bolognese? Salut. Ecco. Ciao cara. Ciao. È stato bello sentirti. E su col morale, dai. Ci vediamo al Mambo venerdì. Io sono un altro anno di trasferte. Esatto. Ciao. Non me ne parlare. Ciao. Piro, siamo tornati ciao. Tra noi. Ciao. Eccoci qua. Sussurriamo un po' anche noi. Come dai. Va di là del vetro? Ah, bene. Sì. Ho il sorriso stampato, vedi? Sì, ha un po' dietro il microfonone, però... Sì, ha il sorriso stampato perché questo libro che finalmente è arrivato alle stampe e finalmente sarà pubblicato e diffuso, e questa è una coxo anteprima in cui per la prima volta fai una presentazione ancora prima della distribuzione reale del libro. Esatto. È un libro che ti ha accompagnato per anni. Eh sì. L'hai cresciuto, l'hai misurato, è nato un po' occasionalmente, ne riporta dentro gli spettri di alcune situazioni e poi un po' alla volta si sono aggiunti personaggi, immagini, colori. Sto dicendo un po' troppo quello che stai dicendo. E alla fine, no, il primo, me lo dicevi prima nel fuori onda, il primo personaggio che è nato di questa graphic novel nel 2009. È nato nel 2009. Esattamente 10 anni fa. E in sono effetti, un po' lento. No, non dico questo, perché comunque tu ti dedichi, cioè ti abbiamo conosciuto qui come musicista performativo in sede teatrale con la compagnia Babylon Bus, che salutiamo. Sei tornato qui come ancora musicista e spalla e uno dei fantastici Uba Boys. Esatto. Adesso sei qui come grafico, quindi capiamo che comunque la contaminazione, tutto questo mondo che è andato a riversarsi nella carta stampata, e stampata come, poi ne parleremo, è qualcosa di estremamente denso che nasce, ti accompagna, nasce quasi come una risposta proprio al destino in qualche modo, un no? Un po' sì, esatto. E poi la vedo così. Io direi adesso facciamo il nostro branino musicale di introduzione, che, okay, che non è a caso. ma andiamo con Mother. Yes. Ok, allora beccatevi questa. Vabbè, però se mi parte così non era proprio quello. Dai che ce la fai. Ce l'ha fatta. Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government? Gonna keep baby cozy and warm. Wow, 1979, Pink Floyd, Mother of Wall. Come mai cominciamo con questa atmosfera? Perché tutto, penso, cominci dal rapporto, appunto, che nasce con la propria madre, il conflitto. Ulala, non mi vorrei dire che banana, no, bacana cocoro è dedicato alla mamma? No, assolutamente dedicato a me stesso. Ah, bene, come bene, celebrazione di me. Di come sono riuscito, appunto. Piro, graphic novelista demiurgo, mi piace, mi piace, creato a misura. No, va bene. Mother, ok, diciamo, non indaghiamo oltre, visto che si parla di conflitti normali, appunto, di questa voglia di buttarsi nella vita, ma la mamma tendenzialmente ti tiene sotto la sua ala di protezione e tante volte non ti permette di volare. Ma a proposito, volare, perché io so che nel tuo libro ci sono ben 9 più 1 personaggi. Yes. E la prima personaggia, yes, è Coco, che ha le ali. È una fatina. Allora, l'anticipo, cioè, prima di tutto lo spiego, i personaggi che fanno parte del libro sono 9 frammenti di me, delle mie emozioni, del mio modo di essere o di essere stato, che ho esasperato nei vari personaggi. E allora vediamoli in esame. Allora, quindi, che Coco è Piro quando? Coco è il Piro che ha voglia di fare, è curioso, si dedica agli altri e crea sinergia con le altre persone e riesce a costruire qualche cosa di buono e guarda caso è una fatina ed è anche, diciamo, il personaggio un po' cardine che attiva anche un po' gli altri. È proprio il centro su cui tutti si appoggiano. Questa è la mia parte che cerca di mettere in equilibrio me stesso, insieme a tutti gli altri componenti. Ok, e poi tutti gli altri sono, diciamo, un po' un gruppo omogeneo, nel senso non è che c'è un personaggio che spicca rispetto agli altri, c'è una buona armonia. Sì, qualcuno l'ho nascosto un po' di più, un po' magari per vergogna. Però fanno tutti parte di un pacchetto. Sì, che fra l'altro hanno dei nomi e delle caratterizzazioni che sono adorabili. Infatti, nel momento in cui abbiamo scelto come musica di apertura per entrare nell'atmosfera Mother dei Pink Floyd, io ho pensato, ma cosa c'entra? Perché è tutto così colorato, tutto così carino, un po' anche manghesco, cioè c'è un molto ammiccamento al manga, a parte, certo, il fatto che c'è anche il sottotitolo in giapponese. In giapponese, capito? Ti abbiamo attaccato l'asce. magari, la cadenza veneta mi sta tornando fuori. Lo dico tristezza. Anche perché il libro è pieno di slang bolognese. A partire dai nomi degli altri personaggi. Andiamo, facciamo una carrellata. Allora, uno è Spaghetto. Spaghetto è... Che sembra italiano. Spaghetto, sì, è prendersi uno spaghetto. Lui vive nella paura. Perché prendersi uno spaghetto in bolognese è spaventarsi. Esatto. E che... E Spaghetto è la mia parte... È un cagnolino? Sì, è un cagnolino. Che appunto è quella parte che la paura ti frena nella vita. Aver paura di fare un salto, di arrivare oltre al tuo limite, ti pone. Sì, perché sei abituato a stare sotto l'ala della mamma e quindi dici io voglio andare, però quando vai non è che dov'è la mamma che magari se cado mi dà la manina, no. La paura è una grossa sfida da combattere. E qua abbiamo Spaghetto. E qua abbiamo Spaghetto. Cucciolotto. Un cagnolino grigio, pauroso. Poi che c'è Balbetta. Poi c'è. Ah, Balbetta anche. Sì, un po' si prende paura. Che è un po' il contrario di Tomella, forse. Tomella è un soprannome che mi affibbiarono alle superiori. Perché io spaccavo. Intomellavi di brutto. Sì, ero. Andiamo alla traduzione. Molto, molto, come dire, tenerone, affezionatone, mi attaccavo. Ma molto quando facilmente. Uno ti fa una tomella, ti tira una tomella, ecco, appunto. Ecco, come che sarebbe? Ti sta addosso. Ti... È l'asciugone, quello che non ti molla più. Che... Esatto. Mi ha intomellato. Esatto. Ed è un gattino questo. Ed è un gatto arancione, anche lui nel suo comunque simpatico e appunto alla ricerca di affetto. Mm. E poi abbiamo il mitico Taffio. Taffio ha a che fare col sapore. Taffio è mangio come, e qua è la mia parte golosa, cioè quando ci sono quei momenti dove la cioccolata non puoi resistere neanche a morire. Al latte. Poi arrivi a un certo punto che sei inciccionito a livelli mostruosi, per cui dici vabbè. E Taffio che aspetto gli abbiamo dato? Taffio ovviamente è un maialino. Lo spettacolo è come l'ha interpretato poi Yuba, ma... Vabbè, ma questo ve lo diremo. Non anticipiamo troppo, che stiamo già anticipando la distribuzione di un libro adesso all'interno della trasmissione. Le anticipazioni le giostesco io. Okay. Poi abbiamo Dada. Uh-huh. Dada è un po' una sfumatura di tomella, cioè è una mucca tenerona che si innamora e perde la testa talmente facilmente, per cui vive in questo mondo di amore, di bisogno appunto di trovare la propria anima gemella. Un po' alla Dylan Dog, dove ogni fumetto si ritrovava a innamorarsi. E qui ancora noto ancora questa bella discrepanza di forme, perché tu mi citi un Dylan Dog che è l'indagatore dell'incubo, tutto in banco nero, con questo contrasto tutto noir. E invece abbiamo una mucca. Se la vedevo come una mucca tenerona che non ha mai... Va bene, poi, lì, poi nell'intervista ti chiederò quando sei stato più muccato in tutta la tua vita, però teniamola per dopo. Sì, ovviamente si parla di però sono cose che poi si trascinano sempre. Poi c'è Yassa. Allora, all'inizio Yassa l'avevo chiamata Miss Fortune, cioè in inglese Miss Fortuna, ma Miss Fortune è anche sfortunata. Poi però ho voluto bolognesizzarlo di più e quindi è diventato Yassa, cioè una coccinella che porta sfortuna. No, povera. Cioè in realtà no, porta fortuna agli altri, è sfortunata lei. Ah, quindi è come una sorta di filtro delle esperienze negative degli altri. Esatto. Vabbè. Cioè agli altri porta fortuna, questo lo vedo molto nel mio ambiente anche lavorativo, cioè ho fatto crescere aziende, ho portato e di ritorno e poi... però sempre un po' forse Yassa me la sento un po' anch'io, Yassa addosso, devo dire, chissà. E qua c'è la svolta, il libro l'ho fatto per me stesso e... Ah, ma abbiamo già finito i 9? No, figurati. Dai, stavo prolungando la questione Yassa. Ecco. Poi abbiamo Gubbio è un pipistrello che ama la vita notturna, guarda caso. E è molto attivo ovviamente di notte, poi però arriva di giorno che è esteso, è stanco, si addormenta, e queste sono un po' un periodo mio della vita dove praticamente vivevo costantemente la notte. Ci e di giorno passati, magari dovevo consegnare un lavoro e stavo a letto a dormire. Guarda, qua a Bologna abbiamo gubbiato tutti, esatto. Ci è toccato prima o poi. Poi abbiamo Bob. Oh. Bob ovviamente è un libro per bimbi ed quindi è tutto molto molto sintetico, molto semplice, ovviamente questa è una descrizione che do in più, però Bob è una scimmia. Scimmia reg, un po' Bob si appunto richiama Bob Marley. E quindi è non un po' la scimmia oltre. Sulle spalle, e quindi non andiamo oltre. Siamo a quello dopo. E poi per ultima abbiamo Sbarella. Sbarella è la rabbia, che è la rana verde con la coda in mano. È un geco femmina. Ups, mannaggia. Però è una lucertola. No, una lucertola più. Ma anche geco era più carino. Poi un geco in facciamo che di solito è una geca. Incazzata. Vabbè, ok. E lei è la mia parte di rabbia verde. Quella che quando c'è qualcosa che gli va contro e non riesce a contenere la propria rabbia, quindi esplode, diventa cattiva con tutti, risponde male E questa è una parte ovviamente che ho imparato a conoscere di me e ho cominciato a mettere in equilibrio ovviamente quella parte di Coco che appunto ricomincia a mettere ogni suo tassello a posto. Ho capito. E poi abbiamo detto 9 più 1, abbiamo parlato di un graphic novelist demiurgo. Esatto. Perché in realtà il più 1 è... Sono io. Sì, sei tu. Che non sono fisicamente dentro insomma, il libro. Anche, ho visto però... la mano. No. Sì, una piccola parte. Perché tu entri proprio come il creatore del mondo. Sì, loro appunto fanno la mia conoscenza e da quel momento scoprono... Succede qualche cosa. Che c'è un creatore che... Succede qualche cosa che noi scopriremo dopo le meravigliose megagalattiche pubblicità delle 7:30. Oh, yes. Siamo pronti? Ma direi di sì, dai. Stai ascoltando Coxo Spaziali. Coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale. Ed eccoci di nuovo in onda, in diretta con il 285esimo coxo e adesso c'è un momento che è saltato per qualche puntata e che mi vede particolarmente ansiosa perché è tornato lui. L'angolo della menzione. E il problema grandioso di questo angolo della menzione è che il comunicato lo posso leggere solo io, che sono la conduttrice coxica più dislessica fra i due. Ed è stato scritto da Stefano, senza nessun tipo di taglia e cuci, quindi sarà preparatevi. Sarà un comunicato stampa lunghissimo, letto con molta difficoltà, però siamo tutti presenti, sosteniamoci. Vado. Venerdì 8 novembre. Non sono io. Venerdì 8 novembre alle 17:30. Il Mambo ospita una presentazione triplo performativa intitolata As If There Was Nothing to Say, come se non ci fosse nulla da dire, di Untitled Book. Volume retrospettivo su Stefano W. Pasquini, appena pubblicato da Diogene Multimedia. Gli interventi del direttore artistico del museo Lorenzo Baldi, che aprirà l'evento, c'è anche una ripetizione, che aprirà l'evento e dell'artista che lo chiuderà, saranno inframmezzati da quelli del filosofo Mario Trombino, direttore della casa editrice, che con Roberta Pazzi e Marina Degano metterà in scena, in chiave teatrale, un dialogo filosofico di sua libera interpretazione sull'idea di arte orizzontale praticata dall'artista bolognese e sulle metodologie di pensiero che ne accompagnano da sempre l'intera opera. L'azione performativa sarà completata da due interventi con Diana Nicotri e Zhao Zhenzi, curati per l'occasione dall'artista stesso. Oh mamma mia, è stato faticosissimo. Com'è andata? Dai, bene, bene. Cioè, non ho fatto troppe gavole. No, hai tirato. Mi è scappato di dire che c'era la ripetizione, adesso mi sgrideranno perché l'aveva scritto sicuramente qualcuno che non dovevo criticare. ma insomma, quel che è. Comunque, fighissimo, sono contenta, non vedo l'ora di andarlo a vedere. Ci vieni anche tu, Piro? Dai, ci organizziamo. Lì, basta che siamo lì e ascoltiamo, non dobbiamo mica leggere il comunicato stampa, Dai, poi sono cose interessanti, bene. Sicuramente. Adesso io quasi esco subito dal mio profilo delle mie, prima che mi dimentichi e ci entri tutta la radio. E detto questo, e usciamo da qui, usciamo da lì. Internet sei una favola. Sì. E noi avevamo fatto sin qui. Vabbè, sì. Da questa ci esco dopo perché è troppo complicato. E noi sin qui avevamo parlato dei 9 più 1 protagonisti che sulla carta stampata si affacciano al mondo tramite la graphic novel di Piero, Bacana Kokoro. Brava. Tu mi vuoi hai male? Bene. Bacana Kokoro. Che significa? Cuore pazzo. Ok, pazzo così. Pazzo. Con la E questo era anche un po' modo per entrare in questo mondo che è tanto colorato, tanto pregno di vita e simpatia, molto ironico, ma in realtà abbiamo visto, grazie alle tue spiegazioni, che è proprio quasi un romanzo di formazione in sì. graphic novel. Infatti è per bimbi, perché è una storia molto semplice. E infatti però... la scimmia non diciamo che cosa rappresenta. Ma alla fine una scimmia attiva anche lei, scherza, ride. È un simpaticone. E appunto stavo dicendo, mi hai interrotto, mi hai fatto perdere il filo. Perché non c'è Stefano, devo farlo io, devo fare un po' tutto. Ah no, sì, praticamente che sì, romanzo d'appendice in versione grafica, una costruzione che è estremamente sì, colorata. Appunto, dicevo, ci sono tanti elementi su cui anche gli adulti possono ragionare e avere tanti spunti su cui riflettere, ecco. Ci sono tanti temi all'interno del libro che vengono toccati, ovviamente in una storia tutta in dialogo. È che questo è un altro aspetto che ci spinge un po' oltre, perché su questi personaggi poi ci sono delle domande che, se magari avanza tempo, vorrei farti. Quello che mi premerebbe invece continuare su cui vorrei continuare il dialogo è anche la versione audiolibro, esatto. Perché giustamente, come stavi dicendo, il libro è tutto in dialogo, sì, tra tutti questi numerosi personaggi e il loro creatore. Esatto. E c'è anche una versione in audiolibro. Esatto. Che uscirà a breve, anche quella sarà pronta. Very contemporary, my dear. E anche qua, appunto, pensiamo un attimo a Sbarella che si arrabbia per i fallimenti, per le cose che comunque non sono andate bene nella mia vita, però alla fine questi momenti mi hanno portato a fare esperienze diverse. Per cui nella mia vita di grafico ad un certo punto si è inceppata, continuo a fare il grafico ovviamente, però ho intrapreso anche una strada che è quella di fonico, appunto per audiolibri, mi ha aperto un mondo enorme. Ma dai! In più comunque conosci le persone, entri nel mondo del teatro, fai spettacoli, quindi si sta parlando anche di mettere in piedi appunto uno spettacolo teatrale coi bimbi. E sì, c'è veramente un mondo che attorno a questa mia creazione si sta evolvendo. Sì, che se ci pensi un pochino, è come il mondo, come ha interagito nel mondo, è andato a riversarsi nella carta e adesso dalla carta ritorna fuori e si attraverso questo filtro ritorna di nuovo ad espandersi nel mondo. Mi stai spoilerando al secondo. Scherzo. No, comunque volevo chiederti, a proposito di audiolibro, visto che ne ho qualche cognizione anch'io, ma quindi ciascun personaggio ha una caratterizzazione vocale anche? Parlano in bolognese? Alcuni sì, altri un po' meno, però è venuto... Ma li hai fatti tutti tu? In che senso? Hai dato tu voce? No! Ma allora non sei proprio demiurgo, Ci sono io personalmente che ho fatto la mia parte. Tu fai te stesso? Esatto. Il manone? Dove appunto parlo con i miei personaggi, poi... In questa mia esperienza di fonico comunque ho avuto la fortuna di conoscere tanti bravi attori con cui comunque, come appunto la mia parte Coco, ho iniziato rapporti di amicizia, di cose che mi hanno aiutato appunto a sviluppare l'audiolibro in modo divertente, interessante, ovviamente con la loro esperienza da attori che io non ho. E audiolibro ci chiama anche un altro tema forte nel tuo percorso, la musica. La musica. Dico bene? Anche lì, ovviamente, il mio percorso di vita, io volevo suonare, mi piaceva, ho avuto i miei conflitti appunto anche con perché? La mamma, perché non, è una cosa inutile, non serve a niente. E invece, anche qua, c'è la canzone dove tramite quella io cerco di spiegare ai miei personaggi appunto come si fa per colorare la propria vita, il proprio mondo. Ed è arriva da una mia esperienza prima negativa, ma che mi ha portato appunto a evolvere, a mettermi in equilibrio. Ed è un messaggio che ho voluto mettere in questa canzone che è... Ma tutti quelli che l'ascoltano dopo la canticchiano, è bellissimo. E guarda, effettivamente io... un uccellino oppure una fatina, una coco, e guarda caso mi ha portato un file MP3 che si chiama Coco Reggae. E allora via. All'ascoltiamo. Ok. Ok, ascoltiamola. Sì, è partita. Ok, ho la soluzione. Visto che siamo in ballo, ecco quello che ci vuole. Musica, maestro! Vai con la batteria. Adesso entra il basso. Bene, bene. Adesso la chitarra. Perfetto. Ok, ci siamo. E adesso ascoltate bene questo pezzaccio. E se non resistete al ritmo, mettetevi pure a ballare. Lasciarsi trasportare è il primo passo per colorare. Brava Coco, così. Adesso alza al cielo la tua bacchetta magica e falla roteare. Quando tutto storto va, gli altri è facile incolpare. Può sembrar difficile, ma dentro di te devi cercare. A tutto sempre c'è una soluzione. Solo 3 minuti e ve lo spiego in sta canzone. Carattere, ognuno ha le sue paure. Se non riuscite ad aiutarvi, impossibile anche iniziare. Guardatevi negli occhi e decidete cosa fare. Se restare lì a discutere o se parlarvi ed ascoltare. Oh, oh, oh, scusa, adesso abbiamo capito. Yeah, quello che dobbiamo fare, se vogliamo costruire qualche cosa di speciale, tutto quello che facciamo dobbiamo farlo con il cuore. Dobbiamo farlo con il cuore, tutti insieme divertirci, il nostro mondo colorare. Ma Piero, io mi sono divertito un sacco a provare a immaginare a che voce corrispondeva quale personaggio. Ma innanzitutto tu, con questa introduzione, con questa voce un po' più te ce vedo, ma non a Demiurga a sto punto, te ce vedo. Ma invece quella che faceva i vocalizzi finali era Coco? No. No? Era la Lolly questa. La Lolly? Lolly che è il pipistrello. Ma dai, me lo immaginavo un maschiaccio con una voce un po' roca, invece è pipistrella. Alla fine è vero, sì. Svolazza, fa così, poi di notte un po' lullulullu. Poi la canzone ovviamente l'ho fatta diventare un po' più... E poi ci ho sentito anche qualcuno che gruvolava. quello che dicevo prima, la caratterizzazione di Taffio è stata spettacolare. Taffio. Ma vogliamo svelare un pochino le identità di questi personaggi che hanno dato voce? Ovviamente, perché anche sul libro poi li ringrazio tutti. Allora, e allora possiamo dirlo anche qua. Ovviamente, certo. Allora, partiamo da Bond, che è... No, il mitico Bond. Ovviamente è Spaghetto, interpreta. No. E oltre a quello, io sono andato da lui un giorno con quattro accordi e il testo. Gli ho detto: Bond, io ho questa canzone. Bene, partiamo. Questa e ci siamo messi a registrarla insieme a Mattia. Il basso è suonato da Matti, che fa Bob. Che sono, fra l'altro, insieme a te, i fondatori dell'associazione QB. Esatto. Che in qualche modo c'entra con la distribuzione anche del sì, graphic novel. Diciamo che l'associazione nasce anche appunto per dare possibilità, in questo caso a me, di appunto esprimere le proprie passioni e provare di intraprendere. Un'associazione culturale vera e propria. Esatto. Che c'ha uno statuto che rispetta le attività. Creare appunto tante cose teatrali, musicali di ogni genere. Poi abbiamo Coco, che è Terry. Oh, Coco qual era? La mucca? No, la fatina. La fatina, oh, meravigliosa. Non vedo l'ora di sentirla. Abbiamo Terry, che mi fa sia da voce introduttiva che... Teresa Fava, una speaker, una numero speaker. Una. Sì, infatti, mannaggia. Una. Poi, come già detto prima, Ubba, che è Taffio. Ubba è stato anche qui il nostro recente ospite al Coxo. Esatto. Stand up comedy Ubba Forever. È una fonte di idee, energie incredibile. Ma quindi voi siete una factory alla sì, fine. Sì, stiamo costruendo il mondo, veramente. Poi abbiamo Maria, che fa Sbarella. Maria della Babylon. Ma dai! Che con cui adesso inizierò appunto a fare le presentazioni del libro. Sì, per questa data pure ce la ricordiamo poi. Alla fine ve la dirò. Sì. Poi abbiamo Lolly, appunto, che è la pedagogista più brava che c'è. Come si chiama Lolly? Olimpia Lolly. Esatto. Okay. Poi abbiamo Elena Nuvolone, che è una attrice, speaker appunto degli audiolibri. Mm-hmm. E Nicole, anche lei bravissima attrice. Cognome? Guerzoni. Ok, conosciamo anche lei. Mi sa che anche lei è stata al Coxo recentemente. Sì, sì. Grande Nicole, da tanto che non ti vedo. E poi ci sei tu. Ci sarà, no, c'è ancora un personaggio che qui non è nominato tra gli amici, perché è mio figlio. Che è Lorenzo. Uh-huh. Tanto Piero anche lui. E a cui ovviamente la dedica in fondo insieme a Lisa. Perché il libro alla fine lo dedico a loro, scrivendo appunto a Lisa e Lorenzo, che anche il vostro mondo sia sempre colori. Oh, il papone. Piero è anche la parte papone tenerona. Ma e quindi tuo figlio è anche uno dei personaggi? Sì. Quale? Sarà Tomella. Tomella, che e era anche... quello lì che mangiava? C'è in realtà un personaggio nascosto che è alla fine. Ah, che quindi non c'è tra i nove? No, perché ogni libro verrà fuori un personaggio nuovo. No. E quindi lui sarà presente nella prossima edizione. No, guarda, queste cose qui con le crypto personali mi piacciono un sacco, tipo le stanze segrete. Bene, bene, grazie Piero. E prego, continuiamo, per senza perdere tempo, che alla fine il tempo qua marcia. E, quindi avevamo detto le date. Allora, abbiamo sicuramente delle presentazioni al pubblico e spoileriamo anche delle trasformazioni laboratoriali e teatrali. Esatto, adesso si vediamo. Parte per il momento con il 30 novembre. Alle ore 17 a Minerbio. Mm-hmm. sarà presso il bar La Vela, sarà fatto per i bimbi, ci sarà la merenda offerta. Che giorno è? Sarà un sabato. È un sabato, sì, sì. È un sabato. Allora, noi ci sentiamo comunque per la menzione il lunedì precedente e così facciamo anche un refresh e ci racconti anche un pochino quello che sarà successo dalla messa in vendita, che è proprio imminente. Ah, c'è già una pagina Facebook di questa graphic novel, dico bene? Esatto, su cui adesso pian piano ci saranno disegni da colorare, avrete notizie. Quindi se io che ho ascoltato questo coxo non vedo l'ora di andare a vedere in faccia queste caratterizzazioni dei personaggi, di conoscere Coco, di vedere Sbarella, Spaghetto, e vado su Facebook. Beh, su e Facebook cosa cerco? Cerchi Baccanà Cocorò, che è scritto BAKA, sì, spazio NA, spazio CO, cioè KO, KORO. Allora, praticamente tutte le C sono delle K. Esatto, Baccanà Cocorò. E se no, se non riuscite, che effettivamente io non ce la farei, andate su Andrea Piromallo e dovreste già visualizzare. Più facilino. No, comunque da domani o dopodomani, quando Stefano dopo i ministeri riuscirà a dedicarcisi, su www.coxospaziale.blogspot.com, come di consueto, trovate il link per riascoltare la trasmissione e tutte le foto e i contenuti extra che il grande Piro ci trasmetterà di qui alla pubblicazione del blog. Grazie. Grazie a te. Ok, fammi pensare un pochino, che qua c'è tanta roba, non vorrei perdermi qualcosa, che qua comincio a essere un po' in ansia perché siamo nella zona Cesarini. Sì. Allora, date la presentazione, abbiamo detto il libro, la storia. La storia, vediamola così, cioè io nella mia vita la cosa che ho sempre desiderato è essere felice e che il mio mondo fosse a colori. E tutte queste mie componenti, che sono i personaggi, un po' mi hanno sempre boicottato nel arrivare a trovare appunto un equilibrio, di essere costantemente nello stare bene nella vita che stavo vivendo. Per cui tante vicissitudini, tanti... Al momento pensavo fallimenti, poi in realtà scoprire che quei fallimenti mi hanno portato veramente a creare qualcosa che va oltre ai limiti che un po' mi sentivo, quell'asticella che non sono mai riuscito, non pensavo di riuscire a superare. E questa qui, diciamo, è la storia, le radici su cui poggia una storia che poi emerge nella pagina stampata. Esatto. E la storia alla fine è una storia di magia, sì, e creare colore. Esatto. Perché il libro comincia in bianco e nero, anzi comincia dalla pagina bianca. Mi sono segnata in principio era solo un foglio bianco, puntini puntini. E poi la frase successiva dice: giorno 1 dopo Piro. Esatto. Che già ti apre un mondo. Allora, dove lo apre, dove non lo apre, lasciamolo un attimo in sospeso. Vediamolo un po' come... Però loro i colori sono fondamentali. Sono come Visnu che sogna un mondo e loro sono la materializzazione del mio sogno. Erdemiurgo mi sei, cascato sulla demiurgizzazione. No, comunque, sì, in buona sostanza il colore è la metafora principale con cui hai voluto gestire questa traslitterazione di tutto questo vissuto. Sì, appunto, il colore è importante, vivere in un mondo in bianco e nero. Ok, ebbene, a questo punto siamo in chiusura di trasmissione. Eh sì. Siamo in chiusura di trasmissione e quindi io, sai cosa faccio? Metto un branino per chiudere. Ok. Metto un branino che mi piace. Non abbiamo trovato l'autore italiano che cercavi, non abbiamo avuto il tempo di trovarlo nella banca dati di Radio Città Fujiko. Però questa cosa che ci sono che è un libro per bambini dicendo, mi ha fatto venire in mente Bambino Marrone di John DeLeo, che secondo me non l'ho è mai carina. Sentita, l'ascolto. Te la propongo. E con questo ci salutiamo e ci sentiamo lunedì prossimo. Grazie Piro per essere stato con noi. Ciao. Do not want it to get there.